vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 14 aprile il sole in regione è sorto alle 6.22 e tramonterà alle 19.54. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. I titoli. Giardinieri d'arte a Gorizia, il corso del CEFAP che forma professionisti capaci di intervenire in aree verdi e parchi storici. Il mercato settimanale, rituale del mondo contadino e occasione d'incontro, un giorno di quasi festa. Coltivare piante da frutto in serra o sotto tunnel, una pratica nel passato poco usata che oggi conosce nuova diffusione. Conoscere ed assaggiare il vino nella maniera più appagante, ovvero trasformandosi in turisti del vino, andando per aziende e scoprendo il paesaggio viticolo. Tutti i consigli su come trattare la farina per conservarla al meglio ed evitare la nascita delle fastidiose farfalline. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Oggi in apertura parliamo di giardinaggio d'arte, un giardinaggio colto, educato attraverso una specifica formazione per professionisti in grado di intervenire in aree verdi e parchi storici. Ci pensa Gorizia, un corso del CEFAP che dal 1969 opera nella formazione professionale nel settore agricolo in Friuli Venezia Giulia. Daniele Marinotto è docente, unico maestro giardiniere della regione. Che tipo di professionalità costruisce questo corso? Il corso costruisce dei professionisti che sono in grado di realizzare interventi di restauro e conservazione e manutenzione dei giardini e parchi storici nell'ambito sia del verde pubblico che del verde privato. Quali figure collaborano alla formazione di questi futuri giardinieri d'arte? L'approccio è molto multidisciplinare. Certamente i docenti che partecipano alla formazione di questi ragazzi provengono da professionalità elevate e possono dare il loro contributo. Ci sono architetti, storici? Certamente, abbiamo l'architetto, ci sono docenti universitari, persone specializzate nella cura degli alberi. È un corso che si svolge naturalmente anche con immersioni pratiche nelle aree verdi storiche della regione. Certo, e vengono guidati dall'architetto per la verifica di quello che è e saranno i giardini. Quali sono le principali difficoltà nel gestire un giardino, un parco storico? Penso magari alla salvaguardia di alberi secolari o anche all'utilizzo di piante che siano consone appunto alla storicità dell'ambiente in cui si opera. L'intervento che vengono chiamati a fare è sempre quello di salvaguardia della pianta, anche in funzione di quello che sono le regole della regione Friuli Venezia Giulia per gli alberi monumentali. Parliamo però un attimo di specie arboree allora. Che cosa si fa, che cosa non si fa? Dove c'è un albero che non sta bene, viene sostituito con lo stesso albero o si cambia? La scelta delle varietà è sempre determinata dallo studio e dalla preparazione del giardino storico, quindi gli interventi di salvaguardia mirano a mettere in grado e in sicurezza tutte quante le piante. Se dovesse essere eventualmente sostituita, viene sostituita con una pianta generalmente uguale. Ecco, e appunto senza queste conoscenze che adesso per esempio questo corso fornisce, in passato sono stati fatti, Daniele Marinotto, degli errori o delle brutture nelle zone verdi storiche della nostra regione? Purtroppo dobbiamo mettere in campo anche non solo le aree verdi storiche, ma tutto quello che è il territorio del Friuli Venezia Giulia, cercando di debellare quella che è la cattiva abitudine di capitozzare gli alberi. Quindi dobbiamo trasmettere ai ragazzi il modo migliore e corretto di poter eseguire le manutenzioni. Perché è tanto negativa la capitozzatura? Capitozzatura mette l'albero, il sistema albero, in una situazione di difficoltà che porterà a costi elevati per la sua manutenzione. Quello che caratterizza il corso del CEPAF in giardinaggio d'arte è un'impostazione improntata alla sostenibilità. Innanzitutto, quali sono le scelte sostenibili che vengono insegnate e quali dovrebbero essere le buone pratiche nel giardinaggio, non solo d'arte, oltre appunto al superare la capitozzatura? Il passaggio generazionale è quello di attraversare il periodo che è stato fatto con l'uso dei prodotti fitosanitari a un indirizzo prettamente bioetico. Quindi l'impronta è quella di rispetto dell'ambiente e di utilizzo di prodotti biologici. Il corso a Gorizia vede la collaborazione e il sostegno di numerosi enti, è sostenuto dalla regione finanziariamente attraverso fondi pubblici del PNRR. Sì, esatto. Abbiamo un partenariato con il Comune di Gorizia, l'Istituto Agrario di Gradisca di Sonzo e un'azienda, la E-Green Project. Daniele Marinotto, il mercato del lavoro chiede esperti di giardinaggio con una formazione alle spalle? Certamente, è l'esigenza non solo del pubblico ma anche del privato, perché abbiamo bisogno proprio di professionisti in grado di operare nel giardino in maniera corretta. Mattina al mercato, quelli di una volta, dipinta da Angelo Floramo, tra molti odori e sapori di cui si è persa memoria. Il mercato settimanale ha sempre rappresentato per il mondo contadino un'occasione straordinaria di incontro, un giorno di quasi festa. Gli uomini si mettevano il vestito buono e andavano per affari. Bisognava svegliarsi alla buon'ora per l'inizio rituale, che in genere consisteva nel primo caffè della giornata, che va da sé. Doveva essere corretto. Il ritrovo era in uno dei tanti locali della piazza che portavano insegne altisonanti come commercio o moderno o ancora, con venature più patriottiche, al milite o al bersagliere. Era la prima screatura della giornata, che prometteva di essere intensa. La tappa obbligata era quella al reparto prettamente agricolo, le sementi dell'orto o i bulbi dei fiori. Ma per quelli bastavano le donne, che approfittavano anche per raccogliere le ultime notizie salaci che circondavano in paese. Una gazzetta senza filtri che si diffondeva a fior di labbra e sulla punta della lingua. Gli uomini preferivano lo spazio dedicato al pollame, covate di pulcini, ma anche galli, oche, anatre, tacchini. I volatili erano rinchiusi in piccole gabbie, già pronti per essere caricati sul carro, trasformatosi poi in anni più recenti in automezzo più o meno adatto alla bisogna. Chi voleva fare sul serio si trasferiva nelle varie aree attrezzate in cui si poteva trovare di tutto, dai lattonzoli di maiale ai verri e alle scrofe. In anni ancora più lontani c'erano i puledri e i cavalli da tiro, le vacche, i tori. Dipendeva dalla rinomanza dell'appuntamento, che talvolta assumeva i connotati della fiera. Gli afrori che promanavano dalle schiene delle bestie o dallo strame facevano parte di quel paesaggio olfattivo di cui ormai si è persa la memoria. In quel giorno i bambini potevano anche marinare le lezioni della scuola. Per loro c'erano bancarelle con le frittole, se chi li accompagnava era in vena di generosità. Per gli altri dovevano bastare le carrube, i bagigi, le noccioline, le strasse ganasse, le pannocchie bollite nell'acqua e poi salate. Piccole golosità di cui le nuove generazioni non sospettano nemmeno l'esistenza. Era comunque una giornata di festa. Se l'inverno incrudeliva con il suo alito ghiacciato, allora verso le 11 l'osteria garantiva un brodo di gallina bollente, o meglio ancora una scodella di trippe. Figura fondamentale restava quella del sensale, che nella lingua friulana veniva chiamato con il nome di miscete. Tra galantuomini bastava una stretta di mano perché il patto avesse valore legale. Fidarsi era bene, non fidarsi era meglio, quindi, nei casi estremi, era consigliato suggellare il contratto con uno sputo sul palmo della mano. Coltivare piante da frutto in serra è il titolo del contributo di oggi del professor Raffaele Testolin in campo di frutticoltura. Oggi vi voglio parlare di un argomento che potrebbe interessare gli agricoltori professionisti, Ma non è detto che gli amici hobbisti dotati di piccole strutture coperte non possano farci un pensiero. Coltivare piante da frutto in serra o sotto tunnel non è mai stata nel passato una pratica diffusa, anzi. Oggi, tuttavia, vuoi per la disponibilità di serre una volta adibite ad ortaggi, vuoi perché la copertura risolve molti problemi di controllo di malattie e parassiti, vuoi infine perché la struttura coperta spesso salva la coltura da eventi atmosferici avversi, la coltivazione di piante da frutto in serra o tunnel si sta diffondendo più di quanto si pensi. Cosa si coltiva in serra? Certamente fragole, sia a terra che su bancali. Questi ultimi permettono ovviamente una raccolta più agevole e l'uso di sacchi di terriccio, che si chiamano pit bags, aiuta a circoscrivere le malattie portate dal terreno. Si possono coltivare tutti i piccoli frutti, ovviamente, a partire dai lamponi per finire con i mirtilli, per i quali tuttavia è necessario allevare le piante dentro grossi contenitori, perché il mirtillo richiede terreno acido. Quindi servono torbe bionde, dato che il mirtillo non crescerebbe nei terreni normali, che generalmente hanno reazione neutra o sono spesso calcarei. Si stanno diffondendo anche le coltivazioni protette di kiwi, soprattutto delle varietà a polpa gialla o rossa, che spuntano sul mercato prezzi più elevati, giustificano meglio gli investimenti per le coperture. Sotto protezione si può coltivare anche l'uva da tavola. Ne parleremo in altra puntata, data l'importanza dell'argomento. Con qualche accorgimento si può coltivare anche albicocchi, peschi e ciliegi, ma qui l'altezza delle coperture deve essere adeguata. Servono portinnesti deboli che riducano la vigoria degli alberi e le forme di allevamento devono adattarsi alla copertura. Insomma, c'è un'ampia possibilità di scelta su ciò che si può coltivare sotto protezione. Per conoscere e comprare il vino si dovrebbe andare in cantina. Non tutti lo fanno, però c'è una rinnovata attenzione a questi viaggi enologici. Ce ne parla oggi Vladimiro Tulisson nella rubrica del Sommelier. Viticoltura convenzionale, lotta integrata, biologica, biodinamica, vino naturale. Abbiamo appreso un quadro delle possibili scelte che il vinificatore può operare nel proprio vigneto. Opzioni che finiscono per determinare il carattere del frutto, dell'uva, e di conseguenza del vino che consumeremo, e il loro legame col terroir, la cultura viticola e anche il paesaggio. Ora non resta che indagare questi diversi stili per scoprire la categoria dei vini che desideriamo bere, che ci appassionano di più. Per farlo, il metodo più appagante è quello di trasformarsi in turisti del vino, andare cioè per aziende e scoprire il paesaggio viticolo a iniziare da quello della nostra regione. Il Friuli Venezia Giulia è stato fin dal passato un territorio che si è distinto per la grande varietà di uve coltivate. Abbiamo un patrimonio di vitigni autoctoni, purtroppo colpevolmente trascurati, ma anche di raffinate tipologie internazionali che sui nostri terreni sanno garantire prodotti di alta qualità. Penso alla Vitosca, al Terrano, alle Ribolle, ai Pinot, ai Sauvignon e ai Tokai, penso al Collio e ancora ai Colli orientali col Merlot, il Refosco dal peduncolo rosso, lo Schioppettino, senza dimenticare Picolite e Verduzzo Friulano che raccontano la parte più a nord delle nostre colline. C'è tutto un mondo di cultura, storia, tradizione, un mondo da scoprire. Quindi bussiamo senza timidezze alle porte delle aziende. Questi primi mesi di primavera sono i più favorevoli per una visita. Saranno ore spese bene incontrando persone vere che probabilmente non avranno una sala da degustazione dove accogliervi, ma vi ritroverete nella loro casa o più spesso in cantina. Chiamate o mandate una mail, annunciate il numero dei visitatori che parteciperanno all'incontro, rispettate gli orari pattuiti. Troverete vignaioli che lasceranno il lavoro per condividere la propria passione e le proprie conoscenze. chiedete informazioni sui metodi di coltivazione, sul perché delle scelte operative, siete convenzionali, biologici, biodinamici, chiedete perché in cantina si è preferito il legno o all'acciaio o viceversa. Capite lo stile del vino legato all'azienda. Assaggiate, memorizzate i vini e non andatevene senza aver comprato almeno 2 bottiglie. Prosit! Le farfalline della farina sono considerate un novel food dall'Unione Europea, ma se non siamo così curiosi di assaggiarle, sentiamo allora i consigli per la conservazione proprio della farina che ci dà Michela Urbano. La farina, la pasta ed il riso sono ingredienti comuni in tutte le case e le pulizie di primavera della dispensa sono una bella occasione per precauzionarci dalla possibile infestazione di insetti. Un argomento che tocca soprattutto noi panificatori seriali, che tendiamo ad accumulare quantità e qualità di farina differenti. Online si trovano molteplici soluzioni per la conservazione della farina, dai consigli della nonna a quelli più sofisticati e moderni proposti dal mercato della chimica. Ho ritenuto necessario chiedere consiglio a Matteo Nattoli, tecnologo alimentare e responsabile assicurazione e qualità presso un mulino della regione, sulle corrette modalità di conservazione della farina in ambito domestico. La prima importante informazione che ci viene data è che la farina è un alimento che presenta un substrato sfavorevole per la crescita microbica, pertanto si può affermare che non ha scadenza. Ma come tutti gli alimenti deve essere conservata in modo corretto. Se il sacchetto di farina viene riposto in un luogo areato, non a contatto con superfici bagnate, umide o con altri alimenti che ne andrebbero a modificare le caratteristiche, può tranquillamente restare all'interno della confezione originale. Non è necessario conservare la farina ad una specifica temperatura, basta conservare il prodotto in un luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore e umidità. Non è consigliabile conservare la farina in frigorifero, perché, oltre ad alterare le caratteristiche plastiche del prodotto, l'ambiente umido potrebbe trasformare la farina in un terreno ideale per la proliferazione di muffe. Le farine con il valore di ceneri maggiore, cioè che contengono più fibre come tipo 1, tipo 2 integrale, sono preferibilmente da conservare al buio, poiché l'esposizione alla luce potrebbe dar luogo a fenomeni ossidativi che andrebbero ad alterare il sapore del prodotto. I mulini durante le fasi di lavorazione puliscono accuratamente tutte le impurità, insetti e uova comprese. Però, pur mantenendo la farina in una condizione perfetta di conservazione, non c'è alcun modo per prevenire l'eventuale nascita di insetti. Il mio consiglio per l'ambiente domestico è quello di conservarne la qualità trasferendola in comodi barattoli di vetro tenuta ermetica e riporla come indicato sopra. Oltre a questa accortezza, affidiamoci al buon senso. In conclusione, ironizzando, vi dico che l'Unione Europea ha inserito il Tenebrio Molitor, tarma della farina, tra i novel food e questo piccolo coleottero è entrato a far parte della lista degli alimenti di cui è possibile il consumo. Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli, Venezia Giulia. Mercato debole con prezzi diversificati venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole del campo di commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 19,30 e 19,50 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 19,60 e 20,10, l'orzo peso specifico 62,65 tra 18,50 e 19 euro e la soia tra 45,40 e 45,90. Carenti le contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi stabili. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate da 0,80 a 1 euro il chilo IVA esclusa, i finocchi da 1,10 a 1,30, i cetrioli da 1,20 a 1,40, le melanzane da 1,50 a 1,80, la scarola riccia da 2,80 a 3 euro, i cavoli tra 1,30, i pomodori in grappolo da 2,50, il radicchio rosso tondo e quello di Treviso precoce da 1,80 a 2 euro, gli aspargi da 3 a 5 euro, i carciofi violetti da 0,30 a 0,40, le patate novelle da 1,30 a 1,40, i meloni da 2 a 3 euro, l'anguria da 1,60 a 1,80 e le fragole italiane da 4-6 euro al chilo. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo favorevoli, l'attività è in miglioramento e i prezzi sono stabili. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono da 20 a 33 euro il chilo IVA esclusa, le orate da 10 a 22, le sogliole da 10 a 25, le canocce da 5 a 15, i latterini da 8 a 11, i mazzancolle da 19 a 23, le capesante da 18 a 21, le seppie da 7 a 10, i calamari da 24 a 30 e i moscardini o folpi da 8 a 16. Nell'ambito dei foraggi, per scarsa richiesta di prodotti, i prezzi sono stagnanti. L'erba medica di prima qualità viene quotata da 10 a 11 euro il quintale, IVA esclusa. Il fieno malgengo di pianura si paga da 6 a 7 euro e la paglia di cereali pressata si quota tra 6,50 e 8,50 euro al quintale. Infine, nel comparto degli avicunicoli, ritorna il quadro congiunturale e i polli a terra vengono quotati da 1,08 a 1,12 euro il chilo, IVA esclusa, le anatre da 3,15 a 3,25, i tacchini maschi da 1,58 a 1,60, i conigli oltre 2,5 kg da 2,34 a 2,40, le uova oltre i 73 grammi provenienti da alimenti a terra sono a 20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Livio Stefanuto, il meteo per la settimana entrante. Il tempo quasi estivo di questo fine settimana lascerà presto il posto ad un ritorno dell'inverno. Passeremo infatti da temperature di 8-10 gradi oltre la norma a temperature di 4-5 gradi sotto la norma. L'anticiclone presente sull'Europa si ritirerà sul Mediterraneo meridionale per l'arrivo di una massa d'aria fredda di origine polare che martedì genererà un fronte freddo e successivamente una depressione sul nord Italia. Domani pomeriggio il cielo inizierà a farsi più variabile, con la possibilità di qualche locale rovescio pomeridiano. Martedì avremo cielo in prevalenza coperto, con qualche schiarita al mattino sulla costa. Ci saranno precipitazioni intense sui monti, abbondanti in pianura, moderate sulla costa, e sarà possibile anche qualche temporale. Nevicherà inizialmente sopra i 2000 metri, ma con quota neve in progressivo ammassamento fino a 900 metri dal pomeriggio sulle Carniche, fino a 500 metri sulle Giulie. Soffierà vento moderato da sud al mattino, da nord sostenuto dal pomeriggio, prima in montagna e poi anche su pianura e costa, con qualche raffica anche forte. Dalla sera soffierà bora forte sulla costa. Le temperature saranno in deciso calo, con i valori minimi in serata. Mercoledì rimarrà nuvolosità variabile. Nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio temporale, più probabile dalla costa alle prealpi. Sulla costa al mattino soffierà bora moderata, poi brezza. Nei fondi valle avremo temperature minime sotto zero e le temperature massime in pianura non supereranno i 15 gradi, con zero termico a 1500 metri. Nei giorni successivi affluiranno correnti da nord ancora piuttosto fredde in quota. Il cielo rimarrà variabile, con la possibilità di qualche locale rovescio pomeridiano. Le temperature minime in pianura oscilleranno tra 0 e più 4 gradi, mentre le massime non supereranno i 15-16 gradi. Buona domenica! Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Avril, un'ora sute, un'ora plovil, ovvero aprile, un'ora asciutta e un'ora di pioggia. Coordinamento tecnico di Daniela Postu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.